Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. This morning and today, all saddened together with us by the news of a horrible attack in Idlib. Chemical weapons as the worst of the war crimes, and whoever is responsible for that must be held accountable. Avete sentito, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, l'alta rappresentante della politica estera in Europa, la nostra Federica Mogherini, che ha detto oggi, ha parlato di questa ennesima strage in Siria, Idlib, probabilmente condotta con dei gas, forse il gas sarin, una strage che ha fatto almeno una sessantina di morti, tra questi 11 bambini, ha parlato appunto di armi chimiche, molto probabilmente, anche perché nelle orribili immagini che circolano questi bambini non hanno delle ferite addosso, ma si vede insomma che sono soffocati. Ci occuperemo di questo perché evidentemente gli uomini si annoiano senza tragedie, devastazione, distruzione, sangue in giro per il mondo. E poi torneremo anche a proposito di questo su Mosca, sentiremo quali sono gli aggiornamenti da San Pietroburgo, anzi in particolare dopo l'attentato, la strage di ieri. Poi, per stare un po' in casa nostra, anche andremo a Roma per capire meglio cos'è questa proposta del Movimento 5 Stelle di una maggiore democrazia in Roma Capitale, magari dei referendum che possono votare anche i cittadini online. C'è, a proposito di politica, oggi la scomparsa di un grande politologo che è Giovanni Sartori. Cercheremo di raggiungere uno dei suoi più illustri allievi, che è il politologo Gianfranco Pasquino. Poi c'è anche il derby, Roma-Lazio, per il momento 0-0. Insomma, un sacco di cose come sempre da raccontarvi qui a Effetto Notte. Non perdetene neanche un minuto, ogni tanto vi ricorderò anche i fatti principali. Adesso una sintesi della giornata, ma prima vi ricordo che avete due canali privilegiati per interagire qui con Effetto Notte, che sono la pagina Facebook del programma e il numero per SMS e WhatsApp, che è 349-238-6666, pagina Facebook è 349-238-6666. Siria, raid aereo su Idlib, la città degli insorti, con gas tossici, la Casa Bianca accusa Assad e dice colpa di Obama. L'attentato a San Pietroburgo, confermata l'identità dell'attentatore, un 22enne russo di origini kirghise legato ai miliziani siriani, e l'ISIS lancia l'appello: attaccate l'Europa, la Russia e gli Stati Uniti. Roma, il Movimento 5 Stelle presenta una proposta in Campidoglio per cambiare lo statuto di Roma Capitale all'insegna della rivoluzione della democrazia diretta. Si punta su petizioni e voto online. Addio al politologo Sartori, lucido e irriverente, inventò la scienza della politica, i suoi libri tradotti in tutto il mondo, fu lui a coniare i neologismi Mattarellum e Porcellum. La Svizzera chiude i valichi, la Farnesina convoca l'ambasciatore elvetico. Denunciò maltrattamenti agli animali, stalliere massacrato di botte, arrestati titolari di un maneggio, si cercano fosse comune di cavalli. Calcio, è la sera del derby Roma-Lazio, vale la finale di Coppa Italia, si gioca in un olimpico senza barriere. Partiamo quindi dalla Siria. Almeno 58 persone, tra cui 11 minori, sono morti in seguito a un raid aereo del regime siriano con l'uso di gas che i medici sospettano possa essere il sarin. Lo ha riferito l'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani, che ha pubblicato agghiaccianti foto di bambini senza vita. L'attacco è avvenuto nella provincia di Idlib, in mano agli insorti aderenti ad Al-Qaeda. Orrore e sdegno nel mondo. Domani riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza ONU. L'esercito di Damasco nega tutto. La Casa Bianca critica Obama, dice colpa della sua debolezza, attacca Assad, ma esclude un cambio di regime in Siria. Per UNICEF l'umanità è morta oggi, e tra poco parleremo proprio con il portavoce dell'UNICEF Italia, e poi ci sarà l'analisi della situazione in Siria di Alberto Negri dopo 6 anni di terribile guerra civile. E poi l'attentato a San Pietroburgo, gli investigatori russi hanno confermato che è un kamikaze kirghizo il responsabile dell'attentato terroristico contro la metropolitana nella seconda città russa, costato la vita ad almeno 14 persone. Si tratta di un 22enne di nazionalità russa, ma originario del paese dell'Asia centrale, il cui nome era stato diffuso questa mattina. Il suo DNA è stato rinvenuto sulla borsa in cui era contenuto l'ordigno inesploso, rinvenuto nella stazione di Ploshad Vostania. E ci collegheremo più tardi con l'inviata di Repubblica. Nel frattempo l'ISIS ha pubblicato un audio di 36 minuti nel quale fa appello ai jihadisti perché attacchino l'Europa, la Russia e gli Stati Uniti, dicendo la guerra contro i nostri nemici è globale, afferma, secondo quanto riferito dal sito Site, che è questo sito che monitora tutto quello che succede online sul web da parte del jihadismo islamico. Immigrazione aumenta del 25% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso il numero dei migranti sbarcati in Italia. Da gennaio a oggi sono state quasi 25.000, una tendenza che si rimarrà la stessa nel 2017. Potrebbe portare in Italia un totale di 200.000 persone. A spiegare questi dati è Flavio Di Giacomo, portavoce dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, intervistato da Adriano Palazzolo. L'aumento degli arrivi di quest'anno in realtà si può interpretare col fatto che, secondo almeno quelle che sono le testimonianze che raccogliamo, sono sicuramente peggiorate le condizioni dei migranti che si trovano in Libia, che sono sempre più vittime di abusi e di violenze. Abbiamo registrato un aumento di migranti che ci dicono che quando avevano lasciato il loro paese di origine in realtà non volevano venire in Europa, ma volevano andare in Libia, per molti di loro ancora percepito come un paese dove poter trovare un lavoro e poter mandare dei soldi a casa. In realtà molti di questi migranti in Libia diventano appunto vittime di violazioni dei diritti umani, quindi vedono l'unico modo per salvare la vita quello di provare la traversata via mare verso l'Europa, perché per molti di loro tornare indietro vorrebbe dire comunque rischiare la vita nel deserto e rischiare di essere uccisi. E adesso siamo alla politica economica italiana. Il ministro Padoan ha incontrato oggi i parlamentari del PD alla Camera, si è parlato di manovra e di documento di economia e finanza. La manovra correttiva dei conti pubblici da 3,4 miliardi sarà costruita con le risorse della lotta all'evasione e taglia la spesa, ma conterrà anche misure per lo sviluppo delle aree terremotate. Lo ha spiegato il ministro dell'Economia, Piercarlo Padoan, all'Assemblea dei Deputati PD della Camera. La manovra arriverà insieme con il documento programmatico di economia e finanza entro il 10 aprile o al più tardi, ha detto Padoan, qualche giorno dopo. Il DEF sarà accompagnato dal Piano Nazionale delle Riforme, articolato in 4 capitoli, concorrenza, misure di semplificazione della giustizia civile, catasto e lavoro. Padoan si è detto contrario alla moratoria delle privatizzazioni e ha spiegato che il taglio del cuneo fiscale è un tema all'attenzione del governo, ma ogni riduzione di tasse ha bisogno di coperture credibili. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E siamo alla politica romana. Il Movimento 5 Stelle presenta una proposta di delibera in Campidoglio per cambiare lo statuto di Roma Capitale all'insegna della rivoluzione della democrazia diretta. Si punta a introdurre la possibilità di petizioni online e sperimentare il voto elettronico per i referendum comunali. Più tardi cercheremo di capire meglio di cosa si tratti, una cosa che potrebbe interessarvi anche nella vostra città. Poi cercheremo di capire. Intanto, sempre oggi c'è stato uno scontro in consiglio in Campidoglio con il PD. Raggi, la sindaca, evoca Mafia Capitale parlando dei democratici, e i Dem minacciano querela ed escono per protesta. A proposito di politica, vedo una dichiarazione piuttosto simpatica, diciamo, di Orlando a 8:30 sulla 7, quindi ve la dico a proposito della corsa per le primarie tra lui e Renzi ed Emiliano. Dice Orlando: non voglio dire che ho più appeal di Renzi tra i giovani, non voglio farlo arrabbiare, Renzi pensa di essere l'appeal in persona. E a proposito di politica, c'è questo addio oggi al politologo Giovanni Sartori, fine politologo, intellettuale, autore di libri sulla democrazia tradotti in tutto il mondo, ma anche un polemista caustico. Dalle colonne del Corriere della Sera lanciò i termini Mattarellum e Porcellum. Era nato a Firenze il 13 maggio del 1924, avrebbe tra poco compiuto 93 anni. E nel corso di Effetto Notte risentiremo un pezzetto di l'ultima intervista che gli feci nel 2014 e raggiungeremo uno dei suoi più illustri allievi, che è il politologo Gianfranco Pasquino. E siamo così alla cronaca. L'inchiesta sugli appalti nella sanità a Napoli, 10 le misure cautelari emesse. Tangenti pari al 2% del valore degli appalti affidati, oltre a utilità varie, sarebbero state concordate tra rappresentanti di imprese, imprenditori, dirigenti di aziende ospedaliere, tra cui quella di rilievo nazionale Santo Bono Pausilipon e l'azienda per il diritto allo studio delle Università Federico II Orientale e Partenope. 10 i destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare ritenuti responsabili a vario titolo di corruzione turbata, libertà degli incanti, tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Uno degli indagati ha minacciato l'intervento del clan Polverino, spiega il procuratore Fragliasso. Uno dei protagonisti dell'accordo corruttivo, per garantirsi l'effettivo e tempestivo pagamento della tangente, non ha esitato a minacciare uno dei soggetti autori dei pagamenti corruttivi, prospettando l'intervento del clan Polverino. Più di 2 anni di indagini della DDA e della squadra mobile di Napoli. Importante la confessione di uno dei protagonisti, Pietro Coci, rappresentante di una delle ditte vincitrici degli appalti. Laura Vigiano, Radio 24, Sulle 24 Ore, Napoli. E da Napoli a Milano, nuova pagina nell'inchiesta sulle presunti tangenti al comune. Altri tre dirigenti sono stati arrestati, erano già stati spostati e ora sospesi, fa sapere il sindaco di Milano Sala. Ecco cosa risulta dagli atti. 3.000 euro per ogni firma, 100.000 per il certificato di stabilità di una scuola, senza disdegnare orologi preziosi o lavori di ristrutturazione, aveva un prezzo preciso, l'accesso alle grazie del dirigente pubblico, fino al 5% dell'appalto, ammette a verbale Marco Volpi, imprenditore del consorzio milanese Scarl, i cui racconti dopo l'arresto 2 anni fa hanno spalancato le porte del carcere ad altri 3 funzionari, Massimiliano Ascione, Armando Lotumolo e Stanislao Innocenti. Sempre in busta veniva le consegne dei contanti, a volte nei cantieri, altre negli uffici di via Pirelli, ricostruisce Volpi, ripercorrendo la stecca da 100.000 euro pagata a suo dire ad Ascione. Per il bando per la certificazione statica delle scuole, invece, c'era stata un'autentica spartizione a tavolino, scrive il giudice, tra imprenditori e dirigenti comunali, mentre c'è chi, per aggiudicarsi l'appalto di un lotto, aveva messo a disposizione del funzionario anche le proprie maestranze per la ristrutturazione del centro estetico della figlia di Lotumulo. Vecchi e nuovi metodi di corruzione all'interno di quella che viene ancora considerata la capitale morale del paese. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora questa brutta storia nel torinese. I due titolari del maneggio di Caluso, appunto nel torinese vicino a Torino, sono stati arrestati dai carabinieri per aver aggredito a bastonate lo stalliere istruttore d'equitazione, colpevole secondo loro di aver denunciato presunti maltrattamenti sugli animali. L'uomo colpito per ore ha riportato la frattura delle braccia e numerose ferite, sono accusati di lesioni gravi, sequestro di persona e tentata estorsione. Il maneggio è stato teatro il 16 febbraio scorso di un blitz delle guardie zoofile per presunti maltrattamenti appunto sugli animali. Nel maneggio sarebbero state smaltite in modo illecito numerose carcasse di cavalli che gli investigatori cercano con le ruspe. E parliamo di questa iniziativa della Svizzera. L'ambasciatore della Confederazione Svizzera Giancarlo Kessler è stato convocato d'urgenza alla Farnesina sulla questione della chiusura notturna di 3 valichi di frontiera, nonché sulle dichiarazioni che hanno accompagnato la decisione elvetica, cioè hanno detto le chiudiamo per evitare i ladri italiani. Lo fa sapere in una nota il ministro degli esteri. E vi ricordate nei giorni scorsi la vicenda di quella ragazzina musulmana a cui la famiglia aveva, i genitori, rasato completamente i capelli perché non voleva mettersi il velo? Bene, resta lontana dai genitori la 14enne originaria del Bangladesh. Il tribunale per i minorenni di Bologna ha infatti convalidato il provvedimento di collocamento al di fuori della famiglia e di affidamento a una struttura protetta. La decisione del tribunale su questa complessa vicenda è arrivata a stretto giro dopo un'udienza tenuta ieri ed è stata notificata agli stessi servizi sociali. Nei prossimi giorni l'istruttoria proseguirà e il giudice sentirà la ragazzina e i genitori ed è stata chiesta una relazione agli assistenti sociali. Un po' di dolcezza e molte calorie in attesa di Pasqua. A Napoli, in occasione, torna la tradizione dell'uovo di cioccolata gigante realizzato dalla storica pasticceria Guy Odin, un colosso di 300 kg di golosità, quest'anno 300 kg, dedicato alla rinascita dei musei napoletani. E per chiudere, non so se è goloso Dario Ricci, ma certo sta guardando con attenzione il derby Roma-Lazio. Beh, goloso di cioccolate e di gol, visto la serata. E sei soddisfatto dei gol? Non mi pare che ce ne siano al momento, dieta, no? Finora siamo a dieta in questo derby che, lo ricordiamo, definirà il nome della prima finalista di Coppa Italia. Siamo al 31esimo di gioco all'Olimpico, Olimpico che dopo 2 anni, lo ricordiamo, torna a non avere le barriere divisorie nelle curve, quindi grande scommessa, diciamo, da parte delle autorità, e speriamo che venga vinta. Finora risultato di 0-0, dicevamo, ricordiamo Lazio che all'andata ha vinto 2-0 e che quindi in questo momento sarebbe qualificata per la finale. Roma che cerca la rimonta senza De Rossi in panchina e finora ha avuto un'unica buona occasione al 20esimo, il bel diagonale di sinistro di El Shaarawy, altrettanto bravo Stracoscia, il portiere albanese della Lazio, a respingere e a salvare sulla conclusione dell'attaccante giallorosso. Lazio che al 5° era andata comunque vicina al vantaggio, ma Immobile non ha trovato la deviazione giusta su cross di Lunic. Quindi 32esimo di gioco, cara Roberta, ancora 0-0 tra Roma e Lazio, e Lazio in questo momento qualificata per la finale di Coppa Italia. Vedremo se la tua golosità di gol sarà soddisfatta più in là. Ci risentiamo con Dario Ricci. Adesso invece ci lasciamo giusto per qualche momento per aggiornare chi viaggia. Per la vostra interazione con Effetto Notte, pagina Facebook del programma, Facebook Effetto Notte, oppure il 349 238 6666. C'è un'ascoltatrice, Luna, che mi scrive, dice: ma i filmati che sono visti dei bambini soffocati dai gas sono quelli, solo quelli mostrati solo dai jihadisti? E mi chiede Roberta: puoi dire le fonti dei filmati che hai visto? Luna, come se fossi sospettosa sul fatto che non sono attendibili, ne parleremo tra pochissimo. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E allora cominciamo ad approfondirle alcune di queste notizie che vi riassumevo all'inizio. Come sempre, Roberta Giordano, naturalmente sempre con voi, fino alle 22, come tutte le sere. Mi raccomando, non perdete un solo minuto di Effetto Notte, tutte le sere, da lunedì al venerdì, in modo che un giorno non potrete dire io non lo sapevo, perché le notizie ve le racconto tutte le sere. Adesso ci occuperemo appunto della Siria e risponderemo a questa ascoltatrice, che è piuttosto luna, che si dice diffidente su questi filmati che mostrano questi bambini morti o comunque a cui cercano di dare ossigeno e di salvare da questa intossicazione, probabilmente appunto da gas, da qualcuno dice il gas sarin, adesso ne parleremo. Vi ricordo anche tra pochi istanti i fatti principali, se non avete acceso puntualmente alle 21, e poi per i vostri messaggi, dicevo, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349 238 6666. Qualcuno sta scrivendo anche a proposito della proposta del Movimento 5 Stelle a Roma, questa democrazia diretta amplificata con referendum online e con petizioni online. Vittorio è critico, dice: tutto fatto sul sistema informatico della Casaleggio e con la mena esclusione di vecchi, di non connessi e di chi semplicemente non vuole lasciare i propri dati sul blog, dice, di un losco affarista. E va bene, e poi altri messaggi, ma adesso vi ricordo appunto le notizie in primo piano. Assad bombarda con il gas in Siria, strage di bambini a Idlib, immagini shock delle vittime. L'UNICEF dice: l'umanità in Siria è morta. Il killer di San Pietroburgo legato ai miliziani siriani, il bilancio è di 14 morti dalla strage di San Pietroburgo, ancora allarme nella metro. E poi a Roma il Movimento 5 Stelle che presenta una proposta in Campidoglio per cambiare lo statuto di Roma Capitale all'insegna della rivoluzione della democrazia diretta, si punta su petizioni e voto online. Addio al politologo Sartori, lucido e irriverente. Giovanni Sartori inventò la scienza della politica, i suoi libri tradotti in tutto il mondo. Fu lui a coniare i neologismi Mattarellum e Porcellum. Ne parleremo con uno dei suoi principali allievi. La Svizzera che chiude i valichi al confine con l'Italia. La Farnesina convoca l'ambasciatore elvetico. Denunciò maltrattamenti agli animali. Uno stalliere massacrato di botte nel Torinese. Arrestati i titolari del maneggio. Si cercano fosse comuni di cavalli. E per il calcio c'è il derby in corso. Roma-Lazio per il momento 0-0. E quindi concentriamoci sulla strage, una strage al giorno, quindi questa è la strage in Siria, oggi provocata da un raid aereo, probabilmente condotto con l'uso di gas. I morti sono almeno 65, tra cui 11 bambini, ne ha dato notizia l'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani. I feriti e gli intossicati, alcuni in condizioni gravissime, sarebbero oltre 350, e l'attacco è stato condotto nella provincia nord-occidentale della Siria, che è Idlib, in mano agli insorti e alcuni aderenti ad Al-Qaeda. Immagini sconvolgenti si vedono attraverso i vari siti. E UNICEF Italia, il portavoce di UNICEF Italia Andrea Iacomini, oggi ha detto: l'umanità è morta in Siria. Ed è proprio in collegamento Iacomini, buonasera, grazie della disponibilità. Buonasera a voi, grazie. Iacomini, prima di parlarci delle sue sensazioni, di quello che ha visto, c'è un'ascoltatrice, Luna, che dice: ma siete sicuri? Puoi dire le fonti di questi filmati che hai visto, come se ritenesse che non fossero attendibili? Vorrei rispondere a questa domanda lecita della telespettatrice, certo, ribaltando un po' il tema, dicendo: anche se queste immagini non fossero vere, quello che è accaduto questa sera accade in Siria da 6 anni. Abbiamo evidenze di bombardamenti a tappeto da 6 anni e di utilizzo di armi chimiche già da molto tempo. Ci sono stati dei ripetuti veti da parte di alcune potenze mondiali nel Consiglio di Sicurezza, proprio per impedire agli ispettori delle Nazioni Unite di andare a verificare l'uso di queste armi. E in Siria i bambini purtroppo subiscono cose di tutti i tipi. L'uso del gas, voglio ricordarlo, fu addirittura qualche anno fa sollevato da Barack Obama e poi da Ban Ki-moon. Poi non si sa perché questa, diciamo, tipo di notizia non ebbe seguito, però ecco, diciamo, in Siria c'è un quadro talmente disperato che anche se questa notizia non fosse vera, sicuramente siamo di fronte a un popolo che da 6 anni ha avuto 5,5 milioni di rifugiati, 280.000 bambini in questo momento si trovano in 15 città sotto assedio imprigionati. Ci sono oltre 500.000 morti, anche se sono delle cifre che noi non siamo in grado naturalmente di confermare, e purtroppo anche il numero dei bambini uccisi, lo voglio ricordare, noi abbiamo smesso di contare nel 2011, erano 50.000, erano 11.000, ed oggi, ahimè, sembra che questa cifra si sia quintuplicata. Quindi, diciamo, in qualche modo la notizia dell'Osservatorio Siriano sicuramente deve essere approfondita, può avere maggiori conferme, anche se voglio ricordare che hanno dichiarato immediatamente tutti i grandi potenti da terra, in particolar modo anche Federica Mogherini. Quindi direi che comunque le evidenze di oggi sono anche quelle di ieri. Il problema è dove era il mondo ieri. E infatti voi, Andrea Iacomini dell'UNICEF Italia, UNICEF nel mondo, sì, che è il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, UNICEF naturalmente internazionale, da tempo insomma chiedete, sì, che le potenze internazionali intervengano. Ci sono stati gli interventi, però sembrava tra l'altro che ormai fosse in qualche modo, seppur con estrema difficoltà e con migliaia di morti, la situazione in Siria un po' diciamo abbastanza ferma, contenuta rispetto a prima. Abbiamo pubblicato un rapporto 2 settimane fa intitolato "Come Nazioni Unite abbiamo toccato il fondo in Siria". In questo rapporto noi denunciavamo 1.000 bambini uccisi negli ultimi mesi, denunciavamo 1.000 bambini mutilati, denunciavamo intere città dove manca acqua, luce e gas, denunciavamo l'incapacità di questa comunità internazionale di trovare delle soluzioni, perché ad Astana ci sono dei colloqui tra una parte dei ribelli e il governo di Assad, ma tutto il resto purtroppo è un quadro complesso dove Al-Qaeda, Al-Nusra, altre forze jihadiste imperversano in alcune zone, molte anche che riparano dalla vicina Iraq, dove voglio ricordare a Mosul c'è una battaglia che non ha precedenti anche lì nella storia, con migliaia di sfollati tra cui bambini. Questo è un contesto che purtroppo in 6 anni è sfuggito di mano, e non è soltanto il problema di ISIS. Vede, oggi parlavamo poco fa del collegamento dell'attentato russo con dei miliziani che probabilmente venivano dalla Siria. Ci siamo mai domandati, anche quando è successo il Bataclan, anche quando sono accadute gli altri attentati, non ultimo questo, tutto questo ha matrice siriana. Ecco, sono 6 anni che le potenze internazionali non riescono a sedersi intorno a un tavolo e a trovare delle soluzioni. Questo mi sembra veramente allucinante, e nel potere di veto questa cosa si esprime in tutta la sua durezza, in tutta la sua miopia. A pagarne le spese è un popolo che non ha voluto questa guerra, e le bombe, diciamo, non hanno un colore. Qui non si tratta di stabilire, come è stato fatto, devo dire purtroppo in alcuni casi, che Assad è più buono di altri o viceversa. Qui tanto ISIS quanto Assad stanno distruggendo questo popolo, e purtroppo non ci sono soluzioni, anche perché, ripeto, il contraltare del governo siriano non è facile da individuare. Ci sono stati bombardamenti a Idlib oggi, l'uso di gas nervino, benissimo. Bisogna spiegare agli italiani che molte delle persone fuggite dalla presa di Aleppo, dove russi e il governo siriano hanno bombardato per conquistare la città e riportarla, diciamo, al novero delle città controllate dal governo, ecco, sono stati fatti diciamo transitare, sono stati portati ad Idlib e poi naturalmente opportunamente bombardati. Quindi accanto ai ribelli, ripeto, entità complessa da definire, ci sono ancora però forti componenti jihadisti. Insomma, ecco, per dirla con Branduardi, che nella Fiera dell'Est parlava "e venne il cane che morse il gatto che si mangiò il topo", in Siria è accaduto questo. È iniziata una repressione 6 anni fa da parte del governo nei confronti di alcuni giovani che facevano i graffiti, ed è finita per essere un conflitto dove dentro c'è l'Iran, l'Arabia Saudita, c'è l'America, la Francia, la Russia, Al-Qaeda, Al-Nusra, e più ne ha più ne metta. Ecco, io trovo che questo, dopo la Bosnia, per non andare troppo lontano, è forse il peggior fallimento della politica internazionale che la storia abbia conosciuto. Pur in questo groviglio inestricabile e orrendo, Andrea Iacomini di UNICEF Italia è stato chiarissimo, la ringrazio. No, io la ringrazio molto, perché non è facile essere chiari. Lo è stato. Grazie e buon lavoro allora, buona continuazione. Grazie, arrivederci. Grazie. Stacchiamo un momento da questi argomenti, perché mi sembra che Dario Ricci reclami la linea. Dario? Sì, eccomi Roberta, il 43esimo di gioco all'Olimpico e da 5 minuti la Lazio è in vantaggio per 1-0. Decisivo Milinkovic-Savic, che ha insaccato battendo Allison, ma arriva in questo momento l'1-1 della Roma. El Shaarawy, sigla l'1-1 alla Roma dopo il gol laziale di Milinkovic-Savic che vi stavo descrivendo. Serve ora un 4-1 per qualificarsi, quindi rimonta tutta ancora più difficile di quella dell'inizio, quando da rimontare c'erano i due gol dell'andata, ma è arrivato in questo momento il pareggio dopo un cross sulla destra, bravo El Shaarawy a deviare di piatto. In precedenza era stato Immobile a inserirsi nell'area giallorossa, prima conclusione del centravanti respinta da Alisson, sulla ribattuta Milinkovic-Savic aveva siglato il vantaggio laziale. Ricapitolando, 44esimo di gioco, Roma-Lazio 1-1, in vantaggio la Lazio con Milinkovic-Savic al 37esimo, e poi pochi istanti fa in diretta avevo raccontato il pareggio di El Shaarawy, un risultato che qualifica in questo momento la Lazio alla finale di Coppa Italia. Quindi gol in presa diretta, grazie Dario Ricci. Ciao Dario, dopo. A dopo. Ora invece di strage in strage, torniamo sulla strage di ieri a San Pietroburgo che ha provocato 14 morti e decine di feriti. Gli investigatori russi hanno confermato che si tratta di un kamikaze kirghizo, si tratta di un 22enne di nazionalità russa ma originario appunto del paese dell'Asia centrale. Ma saprà raccontarci meglio quali sono gli sviluppi dell'inchiesta Rosalba Castelletti, che saluto, corrispondente dalla Russia per Repubblica. Rosalba. Buonasera a tutti. Buonasera Rosalba, grazie della disponibilità. E quindi dicevamo, è questo 22enne, è stato trovato anche il suo DNA sulla borsa che conteneva l'ordigno inesploso in un'altra stazione, no? della metropolitana, sì, di San Pietroburgo. Esatto, lui prima di farsi saltare in aria sul terzo vagone di un treno della linea blu avrebbe lasciato questo ordigno 5 volte più potente di quello causa dell'attentato nella stazione di Ploshchad-Vostania, e lì appunto gli inquirenti sarebbero risaliti alla sua identità. C'è anche un nome che diamo con cautela visti le ultime ricostruzioni poi smentite, sarebbe Akbardion Dialilov, nato nel 95 a Osh, una cittadina appunto del Kirghizistan, tra l'altro teatro nel 2010 di scontri fra uzbeki e kirghisi, però con cittadinanza russa dall'età di 16 anni. Senti Rosalba, la metropolitana dovrebbe essere tornata in funzione, no? Ieri ho sentito anche in collegamento proprio lì da San Pietroburgo uno studente italiano dell'Erasmus, Gabriel Mischiati, che diceva che abita appunto in un appartamento a poca distanza dalla fermata della metropolitana dove c'è stata questa esplosione, però era anche sorpreso di come i russi, gli abitanti di San Pietroburgo, erano piuttosto poi ritornati, diciamo così, tranquilli, con un certo sangue freddo, avevano ripreso abbastanza velocemente la loro vita normale di tutti i giorni. Oggi però si sono registrati 3 falsi allarmi sempre lì a San Pietroburgo, no? Sono ovviamente rafforzate, sì, le misure poi, sì, in tutto il paese. Mi trovavo proprio sulla metro quando stavo per prendere la fatidica linea blu, quando invece ci hanno indirizzati tutti verso l'uscita e hanno cominciato prima a chiudere la metro Shennaya, che è stata proprio la metro teatro dell'esplosione, e poi via via tutte le fermate della linea blu. Devo dire che poi dopo 2 ore è tutto ripreso normalmente, comunque già stamattina la gente si muoveva in metropolitana come se niente fosse. Quindi questa è l'atmosfera per quello che riguarda i cittadini e gli abitanti, Rosalba? Sì, sono anche ieri sera quando sono arrivata da Mosca, devo dire, avevo avuto la stessa sensazione. Uno si rende conto dello shock solo quando si avvicina a uno dei memoriali improvvisati che i pietroburghesi stanno creando proprio di fronte alle metro interessate, lasciando fiori, lumini, e lì cogli la commozione della gente. Se parli con qualcuno, comunque ammette che non può che non pensare a quello che è successo ieri, però al di là di ciò il traffico scorre normale, la gente va in metropolitana come se niente fosse. Il primo è stato stamattina il governatore di Leningrado, la regione di San Pietroburgo, anche per dare magari un segnale alla alla città. Grazie Rosalba Castelletti, grazie, buona continuazione allora. Grazie, speriamo. A voi, grazie. Ciao Rosalba. Intanto vedo è stata battuta un'agenzia, anzi due, che riguardano due notizie diverse. Una ci fa ritornare sulla Siria. Gli Stati Uniti ritengono che nell'attacco chimico in Siria sia stato usato il sarin, perché appunto oggi c'erano notizie smentite su questo, e che quasi certamente il bombardamento sia stato compiuto dalle forze di Assad, che però negano. E poi, a proposito invece del barista ucciso a Budrio nel Bolognese, sarà analizzato quanto prima da RIS il materiale organico trovato sotto le unghie di Davide Fabbri, il barista ucciso la sera del 1 aprile appunto a Budrio nel Bolognese da un uomo mascherato entrato nel locale per una rapina. Ci aggiorniamo dopo sulle, e poi naturalmente passiamo ai prossimi temi dopo questa pausa della pubblicità. 349-238-6666 per i vostri messaggi WhatsApp, oppure pagina Facebook di Effetto. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice, con voi Roberta Giordano. Riprendiamo allora il filo dei temi. Abbiamo parlato della strage in Siria e poi ci siamo occupati della strage di San Pietroburgo, con gli aggiornamenti, gli ultimi sviluppi dell'inchiesta. Calcio con la partita, il derby che è in corso, Roma-Lazio 1-1 per il momento, il pareggio, abbiamo subito proprio un gol in diretta. E adesso passiamo a quest'altra parte di Effetto Notte con altri temi. 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi WhatsApp, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Ci sono vari ascoltatori che difendono Assad eccetera, dicono come Emanuele non avevo sentito i titoli ancora, dice: siete pure voi una banda di cazzari che ha già deciso che il criminale è Assad, come le famose fosse comuni di Gheddafi o i gas di Saddam. Intanto sono questioni diverse. Lì Saddam, senza che avesse in quel momento spinto una guerra verso nessuno, tutti sono andati lì ad occupare l'Iraq e l'hanno fatto fuori senza che dicesse niente, e così anche Gheddafi. Qui si parla di una guerra civile di 6 anni con migliaia di morti, di distruzione, di devastazione, insomma, non so, alcuni ascoltatori. Poi anche bisogna sturarsi le orecchie qualche volta. Chi ha detto che lo dice Trump, lo dice la comunità internazionale? Emanuele, è un po' di contegno. E poi invece un altro ascoltatore dice: Roberta, purtroppo il popolo siriano paga la fedeltà alla famiglia Assad come italiani e tedeschi pagarono la fede per Mussolini e Hitler. Claudio da Milano dice: ma in realtà i siriani sono stati proprio quelli che invece si sono rivoltati, hanno pagato il fatto dell'infedeltà ad Assad. Comunque situazione molto complessa, come abbiamo sentito. Vi ricordo i titoli velocemente. Siria, raid aereo in Idlib, la città degli insorti con gas tossici. La Casa Bianca accusa Assad e dice: colpa di Obama e della sua debolezza. L'attentato a San Pietroburgo, confermata l'identità dell'attentatore, un 22enne russo di origini kizike legato ai miliziani siriani, e l'ISIS lancia l'appello: attaccate l'Europa, la Russia e gli Stati Uniti. Roma, il Movimento 5 Stelle presenta una proposta in Campidoglio, ne parleremo tra pochissimo. Addio al politologo Sartori, lucido e irriverente, inventò la scienza della politica e i suoi libri tradotti in tutto il mondo. E poi la Svizzera che chiude i valichi e la Farnesina che convoca l'ambasciatore elvetico. Del calcio, vi ho detto, il derby Roma-Lazio per il momento pareggio 1-1. La giunta capitolina è in ottimo stato, politicamente stabile e attiva nella realizzazione del programma di governo che i romani hanno scelto a larghissima maggioranza. Ma è evidente che questa convocazione è soltanto strumentale nel tentativo vano di non mettere in evidenza i nostri risultati. Dovreste cimentarvi sul terreno del fare, del costruire per la città. Ebbene, rassegnatevi, perché questa maggioranza va avanti con forza, prosegue nella realizzazione del proprio programma, nell'interesse unico dei cittadini romani. Questo ha detto oggi il sindaca di Roma, Virginia Raggi, durante questa riunione in Campidoglio. Naturalmente si riferiva alle opposizioni: rassegnatevi, perché questa giunta dice andrà avanti per tutto il tempo naturale. Però quello che ci interessa è di una proposta che è stata fatta oggi dal Movimento 5 Stelle in Campidoglio. Sentiamo a questo proposito del Movimento 5 Stelle Angelo Sturni, che cosa ha detto. Il Movimento 5 Stelle presenta questa proposta di delibera di modifica dello Statuto di Roma Capitale. È l'avvio di un percorso di riforme istituzionali con il quale il Movimento 5 Stelle introduce una serie di strumenti di democrazia diretta: referendum propositivo senza quorum, consultazione online, il bilancio partecipativo e la possibilità dei cittadini presentare le petizioni popolari in via elettronica e poterle illustrare all'interno dell'Assemblea Capitolina. Allora chiedo di tradurre alla nostra Manuela Perrone del Sole 24 Ore. In cosa consiste, ciao Manuela, allora questa proposta? Ciao Roberta, è una proposta di delibera che appunto punta a modificare lo statuto per introdurre quelli che sono i principi che il Movimento 5 Stelle sbandiera come i propri principi cardine, cioè la democrazia diretta, l'avvicinamento dei cittadini alle istituzioni, come attraverso le petizioni online, attraverso l'abolizione del quorum per i referendum abrogativi e consultivi, con la proposta di introdurre un referendum propositivo e con il bilancio partecipativo che significa destinare una quota del bilancio alle scelte indicate direttamente dai cittadini attraverso la consultazione popolare. Queste sono proposte di buon senso che però hanno scatenato di nuovo la polemica politica, perché il Partito Democratico ha immediatamente accusato il Movimento 5 Stelle di voler importare la piattaforma Rousseau, cioè il sistema elaborato dalla Casaleggio Associati in Campidoglio, nel comune di Roma. E così anche ricordavo questo ascoltatore, Simone mi pare, mentre un altro dice: è il futuro, ma oggi con la scusa della democrazia diretta si rischia di escludere chi non usa il computer e di favorire i blog di Grillo. Mentre Chiara scrive sulla pagina Facebook di Effetto Notte: come no, sempre che Grillo approvi, ben si intende. E poi Davide: bene, finalmente parlare questo sulla Siria, mentre poi altri ascoltatori, chi lo trova, insomma, un metodo che si potrebbe usare anche in altri comuni, in altre città, e chi invece ha questo sospetto, appunto, che era lo stesso delle opposizioni, no? Come il dicevi Campidoglio tu, ha smentito, ha detto che attualmente ci sono i contratti in essere dal punto di vista delle piattaforme operative con Fastweb e con Leonardo, ha detto che i contenuti saranno comunque in ogni caso gestiti dal comune e ha escluso che l'assessora Marzano, che è l'assessora all'innovazione, ha assicurato che la riforma dello statuto non è il sistema Rousseau. È chiaro che diciamo che forse la critica più sostanziale che si può muovere a questo annuncio da parte della Giunta Raggi è che in realtà finora la democrazia diretta sperimentata dal Movimento 5 Stelle ha mostrato alcune falle, sia per l'esiguità della partecipazione effettiva dei cittadini nella scelta dei candidati, soprattutto nelle città. Abbiamo da poco visto il caso di Monza con la candidata sindaca eletta con appena 20 voti, ma la stessa Raggi era stata indicata come candidata con poche preferenze. Dall'altro c'è stata la clamorosa sconfessione del voto online a Genova con la Cassimatis, è stata assicurata da Grillo. Marica Cassimatis, esatto. Quindi non resta che aspettare il varo di questa delibera, di questa proposta, poi vedremo se funzionerà o meno. Grazie Manuela Perrone. Ciao. Grazie Manuela. Grazie a voi. Ciao, buon lavoro. Viabilità. Per il tuo vino scegli il meglio. Colombin, tappi in sughero, fidati di un esperto. Vi presento. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che vi ricordo in pochi secondi. Abbiamo parlato di Siria con raid aereo su Idlib, la città degli insorti, con gas tossici, almeno una settantina i morti, tra cui 11 bambini. La Casa Bianca accusa Assad e dice colpa di Obama per la sua debolezza. Adesso c'è anche il segretario di Stato americano Rex Tillerson che dice che le grandi responsabilità morali sono in Siria, sono di Iran e Russia. Quindi un rimpallo di colpe. Poi l'attentato a San Pietroburgo, confermata l'identità dell'attentatore, un 22enne russo di origini kirghizi che è legato ai miliziani siriani. Roma, ne abbiamo appena parlato, il Movimento 5 Stelle che presenta una proposta in Campidoglio per cambiare lo statuto di Roma Capitale all'insegna della rivoluzione della democrazia diretta. Addio al politologo Sartori, ne parleremo tra pochissimo con uno dei suoi più illustri allievi. Poi la Svizzera che chiude i valichi, la Farnesina convoca l'ambasciatore elvetico e per il calcio continua il derby Roma-Lazio 1-1. E parliamo adesso di Giovanni Sartori, che se n'è andato poco prima di compiere 93 anni e finissimo politologo, grande intellettuale, aveva insegnato nelle più prestigiose università americane, ha scritto tantissimi libri che sono stati pubblicati in tutto il mondo, un commentatore, un polemista caustico, e anche molto originale, controcorrente, spesso brillante, col suo spiritaccio toscano, è stato anche per tanto tempo editorialista del Corriere della Sera. E, però vorrei farlo raccontare da chi è stato suo allievo, un altro grande politologo che è Gianfranco Pasquino, che saluto. Buonasera professore. Buonasera a voi. Quindi lei che ne è stato allievo, e come lo racconterebbe un personaggio come Sartori, che ha segnato sicuramente non solo la storia della politologia in Italia, ma anche la storia del paese stesso? Non ha soltanto segnato, ha costruito la storia della scienza politica in Italia, perché prima di lui non esisteva neanche la materia come insegnamento, scienza politica al singolare. C'erano curiosamente le facoltà di scienze politiche, ma non il corso di scienza politica. Sartori si è battuto, ha creato naturalmente una rivista italiana di scienza politica, ha curato un'antologia di scienza politica, ad entrambe le operazioni ho partecipato anch'io, è riuscito a far inserire la materia nel curriculum delle facoltà di scienze politiche e poi ha distribuito alcuni suoi allievi, 3 o 4, per l'appunto a insegnare scienza politica. Senza di lui, diciamolo in maniera esplicita, senza di lui io non so che cosa avrei fatto e non so che cosa sarei oggi. Professor Pasquino, fra le varie, diciamo, fra gli aspetti più controcorrente, a parte lui criticava spesso la sinistra, intanto sulla sovrappopolazione, mi ricordo anche un suo libro, più di un libro, no? Che diceva in realtà siamo tanti al mondo, la terra finisce con l'affossarsi, è inutile continuare a dire di fare figli, che ci dobbiamo moltiplicare, ma anche sull'immigrazione di massa era molto critico, no? E sul concetto di accoglienza. Sartori era fondamentalmente un liberale e quindi attento naturalmente agli equilibri di tutti i tipi all'interno dei vari paesi, quindi attento anche alla competizione fra culture, alla competizione fra religioni, alla competizione fra idee, ma non a un multiculturalismo vago, indistinto, pasticciato, abbastanza confuso. Qualche volta prendeva posizioni estreme anche per il suo spirito, che come giustamente ha detto lei, controcorrente. Però il suo liberalismo era un liberalismo, come dire, competitivo, cioè duro ed esigente ma competitivo, e naturalmente se si accettano i valori del liberalismo allora si può fare una competizione vera, se no diventa tutto un pasticcio, e nel pasticcio Sartori certamente non ci voleva stare. Diceva che c'era il rischio, questo temeva, della balcanizzazione della società occidentale con questo multiculturalismo, appunto, come dice lei, un po' pasticciato. Però la risposta era prima di tutto di avere delle regole ad esempio che stabilissero anche come avviene l'immigrazione, regole che stabilissero come avviene l'integrazione eventuale degli immigrati, regole che facessero funzionare il sistema politico in maniera adeguata, e allora molti di questi problemi si sarebbero presentati in maniera meno forte e sarebbero stati quantomeno affrontabili, se forse addirittura forse risolvibili. Grazie per questo ritratto di Giovanni Sartori a Gianfranco Pasquino. Grazie professore. Grazie a voi. Buona serata. Oh, e tra l'altro vi ricordavo anche nei titoli che è stato lui a creare i neologismi di Mattarellum, di Porcellum, no? Per le leggi elettorali. Adesso vi voglio far sentire però un piccolissimo passaggio dell'ultima intervista che gli feci poco meno di 2 anni fa a Giovanni Sartori. Era il 14 settembre del 2015, si parlava di Europa. Il nostro è il caso più balordo della storia, perché abbiamo creato un'entità che ingiustamente viene chiamata Unione, che è tutta fuori posto, non c'è nulla che sia fatto bene e che abbia senso, perché non si può creare un'alleanza, un'entità, lasciamo stare la denominazione, ma non si può creare un'entità politica aperta e indifesa, indifendibile. Noi abbiamo creato un organismo indifendibile, tutti possono entrare e figurarsi, e siamo 2 miliardi, che già quasi 2 miliardi, che è una cifra che non possiamo sopportare. E il problema è questo, che stiamo diventando 2 miliardi e 2 miliardi non c'è posto. E auspico fino all'ultimo il professor Giovanni Sartori. Questo è un ricordo appunto dell'ultima intervista che feci nel 2015. Adesso però torniamo alla partita, al derby Roma-Lazio con il nostro Dario Ricci. Prosegue il pareggio? Sì, Roberta, è appena iniziato il secondo tempo da tre minuti, risultato ancora sull'1-1, risultato che, lo ricordiamo, qualifica al momento la Lazio alla finale di Coppa Italia, finale davvero vicinissima per i ragazzi di Simone Inzaghi, perché la Roma dovrebbe a questo punto siglare altri tre gol, vincere almeno 4-1 per qualificarsi. Lazio che, lo ricordo, era andata in vantaggio al 37esimo con un tocco sotto misura di Milinkovic-Savic, poi al 42esimo è arrivato il pareggio di El Shaarawy con un bel destro al volo, Roma che adesso cerca la rimonta, ma Lazio che sembra in controllo della sfida, ma siamo appena al 49esimo, 1-1, e quindi Lazio in questo momento in Coppa Italia ad aspettare quella che domani sarà l'altra finalista, domani sera, lo ricordiamo, Napoli-Juventus. Dario, c'è una particolarità, no, in questa partita, a proposito dello stadio? Sì, esattamente, Roberta, ricordiamo anche questo, che dopo due anni nelle curve dell'Olimpico, la Sud, quella tradizionalmente occupata dai tifosi giallorossi, e la Nord dai laziali, sono state rimosse le barriere divisorie che in queste ultime due stagioni erano state volute dall'autorità di polizia per evitare la contiguità tra gruppi di tifosi poi difficilmente controllabili. Come avrai visto in questi due anni, in più di un'occasione le due tifoserie, le due curve hanno protestato contro queste misure, in molti casi le curve sono state deserte di fatto, e adesso si prova a tornare alla normalità. Finora tutto a posto e speriamo che lo sia anche in futuro. Quindi vogliono dare fiducia, insomma. Sì, in realtà sì, diciamo che è una scelta che ha comunque fatto discutere, e è partito un input chiaro dal ministro dello sport Lotti, che si è dato questo tra gli obiettivi appena entrato in carica col governo Gentiloni: ripristinare una sorta di normalità all'Olimpico era uno degli obiettivi. E speriamo che i tifosi se lo meritino, insomma, questa fiducia. Speriamo, dall'altro siamo alla vigilia anche di una giornata importante, perché domani la conferenza dei servizi esprimerà il suo parere definitivo un po' sullo nuovo stadio della Roma. Probabile che si vada a un nuovo iter, visto che è cambiato il progetto, no? In Benissimo. Seguito all'accordo. A domani, grazie Dario Ricci. Ciao Dario, ci riaggiorniamo alle 22.